Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma.

tutti buona notte. Cosa c'è? Offrenini! Mrs. Rance, fra poco, no, faccia l'incidente, mi rispende tutto di te, ragazzo, e questi che ho, mi compagnisco, i tuoi pranzi, e sono i tempi, e solo sarai il re del giorno, intende. Se gli agli orri api e capisca che vieni ti volla prova e volla mortale prova e capisca che gli altri scenete vieni ti volla mi dare sarebbe molto meglio. You're the famous one.

lasso in cammino. Attratto sol dal fascino dell'oro, e questo in solo te non m'hai ingannato. Giocare il vostro nome pur Thank you. cuore del pentone, ben appeso a bere San Morto. Figlio di cane, mostraci la tua lumina faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo diavo, se volete mi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci canna. No, non t'inganno. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non t'inganno. Se volete mi porto. Lì ti anterò nel dorso la mia navata! Si va! E annuvolato avremo la tormenta! Legata! E il buon colpo si tenta! A cavallo! A cavallo! Non è preso e nel ballo! Dove si va? Dove si va? Si insegue la Lines! Bastano a guardare Pedro. Al guardiente! Mi sono lasciato prendere per sfidarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Resto addrete un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via! Buona fortuna! Sarà questo fischio. in quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi e vi lasciano così. Ogni no, io rimango qui a vegliarlo, a tutto il mondo è uno. Sono questo morire, seguiteremo la conversazione, sta Thank you.

è vero, pure avrebbe potuto. Ad ecco Nick, che si era venuto prender questo sentiero. È vero, Nick, è vero. Mi finisci la traccia, tu non l'hai visto. Dove dunque è andato? Dove è la nostra rana? È qui. Forse ho sbagliato. Quel fine è una linguaccia. Ma che momento incontro? Che il bandito sia tanto. La sua donna! La sua donna! Che? Nina! Nina Miguel Torino! Lo conosci? È l'amante! Quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero. E prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati. Nive alla là ci ha fatto vedere il suo ritratto. A te! Di che ridi? Oh, di nulla, di nulla! Ma come niente in te che gli si scelto Nina! Vi lasciamo dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. E tu furia, ma cosa fa? Di banditi la strada. La cercai, era quello il mio destino, ma un giorno l'ho incontrata, ho sognato d'andarvene con voi, tanto lontano, per redimermi tutto in una vita. Oh,

accetto, sì, avrò, avrò. Soperbere come un signore, ma per Dio son tutto nella sede di te. Perso e distrutto, ma se vinto t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Pronto, taglia a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Dea che tu l'adori. È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Te ne vedi, ti vinco. Presto già, per pietà, con poche cose stai. Che devo darvi? No. Alla bottiglia, vedo, ma gli chiedi dov'è. Presto già, e non ti vedo per pietà.

racconta, racconta! Come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Ora che facciate presto! Quanto a questo bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Bandallato, rubato e l'ucciso, no! La squadra di Monterre bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalaste alle spalle il povero Tommy, no! Non è vero, sì! Non mi dici ad avvalle, ucciso un postiglione celesti, no! Assassino mai! Alla porta, quella notte venisti per rubare! Con gli occhi e sorriso di minghia di serrarti! Che lei ci ha rubato! Mi ha rubato! Ho fatto leggere la casse! Risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto siete un braccio, mi scozzo di mia mano. D'altro voglio parlarvi, per la palla ancora passa per la so dritta. Ti ringrazio, sonora, per lei sola tanto che tutti amate, a voi chiedo una grazia e una promessa. Sappia mai come son morto. Un minuto sì breve. Bisogna che giustizia sia fatta. allora ci ha rubato il tuo cuore. Il mio sonoro. In nome di tutti, o te.